Pronto? Sì, si sente un po' peggio, però scusate se ogni tanto mi sale la bolla, ma è così, non ce la faccio. Allora, io sono Marco Cuneo e sono un agricoltore di Abbiate Grasso. Allora, io non, ho il difetto di non riuscire a parlare bene davanti a tanta gente perché sono abituato a lavorare con le mani nella terra. Allora, io vedendo questo filmato ho rivisto un po' tutto il percorso da quando ho iniziato questo lavoro. Tanti anni fa, entusiasta di iniziare, di continuare il lavoro di mio padre, ho rinunciato agli studi che avevo fatto per fare l'agricoltore, perché mi piace coltivare la terra, stare all'aria aperta, così. Purtroppo devo dire che pian piano, col passare degli anni, questo mio entusiasmo ha cominciato a decrescere. Perché tante belle parole che si sentono, tante belle, l'agricoltura, l'ambiente, poi alla fine ti scontri con la dura realtà. La realtà è molto semplice, che tu a fine anno devi fare, i costi e i ricavi. Perché essendo io un imprenditore agricolo, a fine anno se un anno chiudi alla pari, l'anno dopo ci rimetti, l'anno dopo ci rimetti ancora, sei anche costretto a fare delle scelte. È vero, qua si dice il mais, i campi di mais terminati, però fino a qualche anno fa era la cultura che rendeva di più. Perciò certe condizioni si viene obbligati a sceglierle. Comunque, vabbè, io sono sempre stato un po' cioè all'avanguardia. Ho sempre aderito, ad esempio, un po' di anni fa ai vari progetti di agricoltura integrata, prendendo anche dei finanziamenti dalla Comunità Europea. Il problema è che quei finanziamenti che prima ti davano per questo tipo di agricoltura, adesso te li stanno togliendo. Perché purtroppo io facendo riso, faccio un esempio banalissimo, facendo riso negli anni precedenti, facendo agricoltura integrata, dovevo fare delle rotazioni. Adesso è stato dato fuori che chi faceva le rotazioni un po' di anni fa viene castigato non prendendo altri contributi. Un altro esempio banalissimo: io ho messo 20 anni fa circa 4.000 metri di alberi sui filari, fatto i filari. Adesso ogni anno, facendo foto col satellitare, ti scoprono che dove ci sono i filari ci sono delle zone d'ombra, non ti pagano i contributi, ti continuano a mangiare terra. Io dall'anno scorso ho iniziato una nuova esperienza, che è quella di fare ortaggi, grazie all'aiuto di alcuni amici, mi hanno trascinato in pratica. Abbiamo iniziato a fare ortaggi biologici, con tante difficoltà all'inizio. Quest'anno siamo al nostro secondo anno, sembra, no, almeno noi speriamo che le cose crescano ulteriormente. C'ero tra le tante cose che ci manca è la conoscenza, la gente. La gente non conosce, non sa la differenza. Non conosce bene le realtà degli ortaggi, tanto per dire. Allora, capitava di venire gente a comprare in azienda a chiederci pomodori al mese di dicembre. Cioè, manca proprio la conoscenza delle piccole cose. Settimana scorsa è arrivata a casa mia due signori che mi chiedevano se avevamo della verdura, delle melanzane, ed è gente che non è che abiti chissà dove, abita a Milano, non è che. E queste cose ti lasciano proprio, ti lasciano proprio perplesso, ti dici, ma cavolo, com'è possibile che nel 2012 ci siano queste realtà? Io cosa posso chiedere all'amministrazione comunale? In realtà non è che noi come agricoltori possiamo chiedere chissà cosa. I nostri problemi sono ben al di sopra di una realtà comunale. Come comune possiamo chiedere innanzitutto la salvaguardia del territorio, perché purtroppo molte urbanizzazioni, magari alcune sono anche giuste, alcune strade possono anche essere giuste, però non tengono mai presente cosa comporta fare una strada in un certo punto, in un certo luogo agricolo. Noi abbiamo, noi qui nella Biatense, io abito nella vallata del Ticino, usiamo tutta acqua di fontanili. In questi ultimi anni, da quando è stata fatta la strada per Malpensa, è diminuita moltissimo l'acqua dei fontanili. Non so se quella è la causa, può anche essere mille altre cose, però è una conseguenza, può essere anche una conseguenza di quello. Cioè, molte volte si pensa a costruire, a fare, senza chiedere, magari anche solo chiedere cosa ne pensano gli agricoltori, quali danni potrebbero avere, qual è il posto magari migliore per fare passare una strada, un qualcos'altro. Manca proprio un colloquio con la realtà presente nel territorio. Un'amministrazione, possiamo chiedere la valorizzazione dei nostri prodotti. Io fino a qualche anno fa avevo le bestie da carne. Io le alimentavo con erba, fieno. Non riuscivo a vendere la mia carne perché quando una mucca, un animale mangia l'erba, il grasso diventa un po' giallo. Se voi date a una mucca da mangiare l'erba, il latte diventa un po' giallo, il grasso della mucca diventa giallo. I macellai mi dicevano che se tu metti sul banco una fetta di carne con il grasso un po' giallo, nessuno te la comprerà mai, perché la gente vuole la fetta magra, vuole il grasso, se proprio c'è, non deve essere giallo, deve essere bianco. La soluzione potrebbe essere adesso ho fatto un po' di casino comunque potrebbe essere incentivare la conoscenza di queste realtà che abbiamo nel nostro territorio. Giustamente qualcuno diceva Abbiategrasso Città Slow non sa neanche che esiste una realtà come la mia, come qualcun altro vicino a me che da qualche anno si è messo anche lui a fare verdura. Città Slow non le conosce queste cose. Cioè, a casa nostra non è mai venuto nessuno di questi personaggi a chiedere cosa facciamo noi. Dico noi, ma dappertutto. Un'altra realtà, un'altra cosa che l'amministrazione, come può stare attenta, oggi si parla tanto di filiera corta, chilometri zero. Io però mi sto accorgendo che sono parole belle messe lì, però c'è tanta gente che sta speculando su queste cose. Bisognerebbe fare anche più controlli su queste realtà, perché purtroppo tanti ti mettono fuori il cartello così, chilometro zero, filiera corta, poi magari arrivano da realtà che arrivano da fuori provincia addirittura. E una cosa che mi sento di chiedere all'amministrazione è quella di instaurare ad Abetegrasso, io spero che Finiguerra riesca a diventare sindaco, un rappresentante degli agricoltori. In tutti i paesi qua vicino a noi c'è un assessorato all'agricoltura. Qua ad Abetegrasso è già stato proposto un po' di anni fa, è una cosa mai poi andata in porto. Io spero che con Domenico si possa essere possibile una cosa di questo genere. Grazie e scusate.